Ok, allora ci siamo Alessia, abbiamo al telefono una componente delle Crucified Barbare, più precisamente Ida Evil Eye. Intanto abbiamo ascoltato il loro nuovo disco, che lo ricordo si chiama Till Death Do Us Part, il brano Pain and Pleasure. Ida, parlami del nuovo disco Till Death Do Us Part. Quali sono state le idee musicali che avete avuto per le canzoni e in che modo avete realizzato le vostre canzoni? Ida, how did you make the songs and of your last album? And what were your ideas about the album before making it? What did you expect from the album? We started writing songs after touring for a long while, so we took a break, and we all write songs, sometimes alone and sometimes together. And what we wanted to do was a heavier album with more dynamic melodies and a heavier sound. And we searched a lot for a good producer and a good sound engineer, and we found two very good guys to work with. And we wrote the songs in like 6 months, and then we went into the studio. So that was great. It turned out just the way that we wanted. Yes. So I made this translation. Loro hanno realizzato le canzoni nel loro studio, scrivendo e componendo, hanno pensato di quale canzone fosse quella migliore in base al suono che fosse il più forte, però anche il più melodico, quindi cercando di concepire insieme la melodia, però cercando un suono che fosse un po' più pesante rispetto all'album scorso. Il CD è stato realizzato in 6 mesi, quindi diciamo un lavoro molto veloce. E poi hanno cercato un produttore o comunque di una registrazione che riuscisse a enfatizzare tutto questo lavoro di suono nel quale loro ci hanno investito molto tempo, e hanno cercato di farlo poi tutte insieme, non solamente una persona, in modo che ci fosse più integrità, però anche più lavoro insieme, al punto della ricerca di questi suoni. Alessia, ora quale canzone delle Crucified Barbara ascoltiamo? Adesso ascoltiamo il primo singolo e videoclip, che si chiama Sex Action. Rimanete con noi, che continua l'intervista con Ida delle Crucified Barbara. Let's rock!